ma dove vai? Entro qui a fare scorta di bellezza. Piume? Non li conosco. Ma scusa, come pensi che mi prenda cura di noi e della nostra casa? Da Piume trovi anche tantissimi profumi e articoli di make-up. E conoscendoti hai prezzi migliori. Esatto. Mamma, ma quante ne sai? Dal 24 luglio al 6 agosto, BioPoint shampoo professionale 400 ml a solo 4,99 euro. E tutto panno carta a due rotoli a solo 2,29 euro. Più me, coccole per te e la tua casa. Più me. Star Trekking across the universe. On the Starship Enterprise under Captain Kirk. Star Trekking across the universe. Life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it. Captain. There Klingons on the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's Klingons on the starboard bow, starboard bow. Carissimi amici di Monti di Bestemmie, benvenuti a questa ultima fantastica puntata speciale che era prevista ma non era prevista. E come ho detto prima nella preview, ovviamente i nostri sistemi operativi sono andati in ferie, i microfoni sono scappati, le cuffie sono sparite, tutti al mare a mostrare chiappe chiare, ma noi siamo andati al cinema a vedere un filmone, come avete visto anche nel gruppo Telegram, come avete visto anche nell'evento, nella pagina Facebook di Monti di Bestemmie. Siamo andati al cinema a vedere sto film che si sapeva che usciva, però poi dopo averlo visto ci siamo sentiti fra di noi e abbiamo detto non possiamo non parlarne, e quindi niente, sono qui insieme a un ritorno e per la prima volta qui a Morti di Bestemmie, Luca Casciola. Ciao a tutti. L'entusiasmo. Che bello che mi chiami. No, vabbè, fa caldo. Ma che bello che mi chiami per questo film. Questo film qua proprio. Grazie. Poi che ancora non proprio questo. Detto. Tanto sta scritto sul titolo, quindi insomma. Però faremo anche il racconto di quando siamo andati proprio tutto l'evento di andarci, proprio che noi siamo andati insieme. Che forse è la cosa più piacevole tutto sommato poi alla fine. Cavolo, cavolo. Allora, presentiamo l'altro? Sì, presentiamo anche dall'altra parte, verso le nebbie di Avalon, anche se penso che in questa stagione proprio di nebbie ce ne siano poche. C'è Alex Raccuglia. Ciao, che qualità della Madonna che sentite oggi con i miei super microfoni, vero? Sì, ma soprattutto si sentono pure le formiche che camminano. Tu che ma sposti io cose. Voglio dire una cosa, ma so io che sento un metronomo perché sono malato, o sento il metronomo o c'è qualcosa tipo tic tic tic tic. Sì, secondo me sono io. Alex. Bene. È vero, sì, Alex, presentaci l'ospite. Che ritmo. Inghiotto, sta mangiando. Sto mangiando, sì, la mia cena. Allora, presento l'unica ospite che di Star Trek ce ne capisce quasi come pizzi, signori e signori, la figa in persona, Claudietta Maravalle. Oh, grandi applausi. Se avevo gli effetti pronti, gli mettevo l'applauso, ma non ce li ho pronti perché l'ho disinstallati tutti qui da Spreaker perché facevano schifo. Ma, scusa, ma che vuol dire che ne capisce come pizzi? Quindi, cioè, che ne capisce come pizzi e che ne capisce tanto o poco? Esatto. Beh, perché è una tracker, è una fanatica della fantascienza e io sei la meno di te. Ah, quindi, diciamo che sono un'appassionata di medio livello e... Senti, ma sei mandata allo Stickon? No, quello no. Allora no, niente, noi non ci possiamo più andare. Vi hanno cacciato? No, diciamo che dopo, a posteriori, ci hanno esiliato più che cacciato. Sì, abbiamo fatto un reportage in cui Vizi ha fatto tipo il giornalista di studio aperto, ha tagliato le cose, sembra io insulto lo Stickon, e allora questi si sono incazzati e hanno detto che ci ridoppiavano il video con al posto che io parlavo c'erano le scuregge. Gli è rimasta terribilmente però non l'hanno fatto. Vabbè, ma no, cioè, voleva tutto un lavoro dietro, scarica il video, ridoppialo, rimontalo su, dai su. No, il video è stato un grande video che è stato un pezzo di giornalismo verità poi fondamentalmente, insomma, perché abbiamo raccontato proprio verità. Beh, alla fine era tipo, immagino che io dicevo, perché lo Sticcone è pieno di belle persone e tutto quanto, però ogni tanto sono antipatiche. Quando Pizia Montana è diventato, allo Sticcone ci sono le persone antipatiche. Ma che cazzo sai? Ma che cazzo, guarda che c'ho gli originali, non di stronzate. Tipo studio aperto. Io ti pubblico tutti gli originali. Volevate essere cacciati però così. Ma sì, vabbè, ma cioè, la scena è questa. Ah, bella la rivista. Che cos'è? È la rivista ufficiale dello Sticcone, della Stick. Lo posso prendere? No, devi essere socio. Vabbè, la voglio, vabbè, ti è la rivista, cioè cose così succedevano, No, è che Pizzi mira a fare studio aperto. Se tu vedi nella versione originale che abbiamo visto su In Poi, ci sto io che parlo e faccio ecco lo Stick e poi due culi e due tette al mare, però se state torrida, ecco i perizomi, capito? Certo, certo. Guarda, tiro fuori l'originale, già te l'ho detto, attenzione. Bene, c'è solo Carmine, vabbè. Noi salutiamo Carmine, gli vogliamo sempre bene, questo ci fa piacere. Allora, siamo andati a vedere questo benedetto Star Trek Beyond. E qui la questione si fa un po' pratica, cioè un po' critica, volevo dire, perché in realtà se prendiamo... Però aspetta Pizzi, Carmine ha detto che allo Sticchi ci sono solo i Ferenghi, così lo cacciano pure a lui. No, perché c'ha ragione, perché è solo la roba desordine, ecco. In pratica, ecco, apposta. L'ho detto io stavolta, non ha detto Luca Casciola, quindi prendetevela. Infatti, con me, prendete il mio audio e lo ridoppiate con le scuregge, fate così. Ma più che altro erano minacce di morte che erano interessanti. Ah, è intanto, vero, anche morte c'era. Intanto sentiamo Alex che continua a muovere cose. Se non ti minacciano di morte su internet, non vale niente. Ricordo. Esatto. È vero. Non esisti, praticamente non esisti. Bon, allora dicevamo del film di Star Trek, e poi parliamo anche del pre, del come, perché noi insomma siamo andati, abbiamo fatto dei messaggi audio prima, tra il primo e il secondo tempo, alla fine diciamo del secondo intanto tempo. Chi siamo andati? Chi siamo andati? Allora, qui a Roma eravamo io e Luca Casciola, con le relative con le signore, chiaramente, insomma. Perché poi c'era Carlo con la signora, Carlo Burigana con la signora, poi c'era e Giuseppe con tutta la Sicilia, con i genitori. Al seguito. E basta. E non è venuto Marco, e è questo il punto fondamentale. E c'era Shuren, cazzo, scusa, Shuren. E c'era Shuren, è vero, c'era ragione. Che però a un certo punto, subito dopo il film, noi al pub, che è un pub che deve morire bestemmie, che c'era musica a palla. Quindi non, per parlare tra Luca Casciola e Shuren ci volevano degli intermediari assicurati. Insomma, quindi, esatto. Quindi, e vabbè, siamo andati a vedere questo film e quando siamo usciti un po' tutti, insomma, eravamo... così, insomma, chi ha espresso quasi contentezza, tipo Giuseppe, che tanto a Giuseppe gli piacciono tutti i film quando ci sono queste cose qua. Shuren, che vabbè, giustamente essendo un fan di Doctor Who non la vede dal punto di vista Trek, quindi dice vabbè, a me è piaciuto. Poi ci stavamo io e Casciola, che se ci avessero io e Pizzi, se ci avevano tradito le mogli, eravamo meno o meno incazzati. Anche perché al nostro volto la storia, anche la storia che è ingiustificatamente stravolta, perché J.J. Abrams ci ha giustificato che in questa nuova trilogia, da quando appare Nero nella flotta stellare, cioè nella storia della flotta stellare, tutto cambia, perché lì praticamente si dividono gli universi. Però in realtà non è vero. Come non è vero? Non è vero, si dividono prima gli universi. Prima quando? Allora sentiamo subito l'esperto. Gli universi si dividono prima, per questo sono andata a riguardarmi la cronologia, perché nell'universo tradizionale, diciamo, quello che noi tutti amiamo, il capitano James Tiberius Kirk, il padre è vivo, cioè vive fino a che lui ha una certa tot età. E non solo, non è nello spazio quando lui nasce. No, non era nello spazio, esatto, quando lui nasce, lui non nasce nello spazio soprattutto, ma sulla Terra. Per cui c'è già stata una divisione prima, evidentemente, perché Kirk io è lo so terrestre. Qual è. No, però scusate, fermi tutti. C'è la sua nascita terrestre. Esatto, so. Kirk nasce sulla Terra. Oh, adesso ti faccio parlare, Luca. Il problema è questo, che loro quando hanno fatto questa cosa hanno fatto una stronzata. Ok, e non l'hanno saputa giustificare, come su Lost. Allora, io mi sono andato a vedere proprio l'altro giorno la Wiki, e la cosa che mi sconvolge è quanto anche le Wiki, quelle belle specializzate Trek, siano disposte a modificare tutta la struttura all'interno in funzione di questi tre film di merda. Cioè, che è la cosa che mi fa sbagliato. Mi fa incazzare terribilmente a me sta cosa. Cioè, perché noi abbiamo visto a un certo punto del film una nave stellare della flotta classe NX, quindi le prime navi a curvatura. Come la Nintendo. Esatto, come la Nintendo. Che era la Franklin, se non sbaglio, che sì. viene spacciata come la prima nave a viaggiare a curvatura 4. Oh, okay. E meno male che qualcun altro se ne accorge. No, però a viaggiare a curvatura 4. No, sì, ok. Sì. Ma okay. se lui è, vabbè, è complicata di così. No, Pizzi finisci poi, se mai aggiungo, vai. No, e vabbè, in realtà quello che c'è da dire subito è che è una cazzata pazzesca. Ok, anche perché sì. le classi NX, che poi sono state dismesse quasi subito dopo la nascita della federazione, in realtà la prima nave che va a curvatura 4, e tra l'altro non va a curvatura 4, ma di default andrebbe a curvatura 5, però poi dopo non ci arriverà quasi mai, è proprio l'Enterprise, quindi l'NX-01. Esatto. Ed è una cosa che... E tra l'altro vengono citate le guerre dei Romulani con gli X-Indi, guerre che di fatto non ci sono, a parte la guerra con i Romulani sì, ma la guerra con gli X-Indi di fatto non c'è mai stata una vera guerra, cioè c'è stato un attacco... No. degli X-Indi alla Terra e poi vai. No, no, vabbè, dipende da come tu vuoi considerare la guerra. Diciamo che c'è stato sicuramente degli scontri e in realtà nella linea temporale alla fine finisce che non c'è più, nel senso che loro fanno in modo che non esista più la guerra X-Indi, però in una bolla temporale la guerra X-Indi è esistita. Sì, però anche nella narrazione però... che noi abbiamo visto, in realtà, allora noi abbiamo il cattivo di sto film, che è uno esatto. che si disperde nello spazio, si ritrova su sto pianeta, trova un dispositivo che lo tiene in vita per qualche centinaio di anni, un centinaio di anni, qualcosa di più, e, sì. e lui si incazza praticamente perché lui era l'ultimo dei mago, quindi dei fanno spoiler Pizzi però ma spoiler qui tutto spoiler, se ne frega. Non ce ne frega proprio niente, grazie. A noi allora, spoileriamo, allora, fammi dire. Vai. Fammi dire dove si dividono gli universi, perché me lo sono ricordato. Vai. Dove dici? Quando i Borg vengono trovati dopo primo contatto nella serie Enterprise, è lì che qualcosa cambia. Io ho atterrito con questa cosa, però è così. Il primo diciamo cambio che, in diciamo cui teoricamente è qualcosa un po' profana sta cosa, cioè i Borg su Enterprise non ci dovevano stare, cioè, nel senso. No, perché a primo contatto ha cambiato tutto, è primo contatto che cambia tutto in un certo senso. Ma vabbè, sì. posso fare la sinossi del film? Sì, sì, aspetta, fammi finire solo sta cosa che dicevo, così sì. veloce. Vai. Che c'è sto cattivo, che in realtà è questo qua che si è perso nello spazio, che era uno degli ultimi mago, quindi l'ultimo militare, perché poi la flotta viene demilitarizzata, gli danno una nave e fallo contento, lo mandano a fanculo nello spazio, questo si disperde, si trova su sto pianeta, trova sto dispositivo che è un'arma feroce o roba del genere, che lo tiene in vita in qualche maniera. E lui che fa? Cioè, a me poi questa è la cosa che mi fa incazzare questi tre film. Cioè, noi abbiamo capito, è vero che qui J.J. Abrams c'entra poco, no? C'entra poco, no, perché qualcosa c'entra. Però quello che mi fa ridere è che su tutti e tre film c'è qualcuno che vuole distruggere la federazione. È proprio la federazione il problema, capito? Cioè, Abrams c'ha un problema ideologico nei confronti della federazione. Ce l'ha proprio. No, non hai capito. Questa è il tipico atteggiamento americano. Noi andiamo ad esportare la democrazia attraverso la federazione. E i paesi islamici, cioè i pianeti islamici che non accettano la democrazia importante. Che viene identificata con la federazione, dicono no, dobbiamo distruggere, make federazione great again. Sì, ma questo non è un islamico. No, infatti è un false flag questo, cari. Oddio okay. Che è? È un false flag. Attenzione, aspetta, spiegaci, perché lo siamo un po' ignorati. Giustamente. È quello che i complottisti dicono che è successo con l'11 settembre, cioè che in realtà è stata la CIA a fare l'11 settembre per far sì che loro potessero fare la guerra ai paesi arabi. Quindi in questo caso qui è lui che decide di distruggere una base della federazione, perché così la federazione rientrerà in guerra contro gli altri con cui ha fatto la pace. Ok, che poi in realtà lui vuole attaccare questa... base stellare, che è praticamente un'enorme città che nell'epoca di Kirk non sarebbe mai esistita. però va bene, facciamo finta di niente. Perché praticamente quella base stellare era rappresentativa di un simbolo. A fare Exilium, avete presente Exilium, il film di Blomkamp? No. Sì. No, ma sì, quello dove c'è l'anello, sì. sono poveri. Vabbè. Ah, sì, ho capito. Allora, Justin Lee ha detto. E che sto stronzo fa un anello, ma io ne faccio 18 inculati uno dentro l'altro e vaffanculo. E così è detto. Oh ragazzi, degli effetti speciali, dovete farmi 18 anelli inculati uno dentro l'altro. Vabbè, se proprio insisti. Però sono belli. Allora, questa è l'unica cosa. Sì. Non c'entrano niente con quell'epoca storica, però sono molto belli. No, no, beh, bello, si ricorda un po' la cittadella di Mass Effect, il videogioco che sicuramente Carmine comunque, ci ascolta. Comunque, a me ricorda City Life. Ok, posso dire una cosa? Mentre Alex finisce di mangiare, perché ha quasi finito, io lo percepisco. Però. No, no, c'è. C'è ancora. Uno che il tizio qua mi ha dato ragione, ha detto che in primo contatto viene cambiata la storia e viene lasciato un collettivo di Borg sul quindi dall'app presumibilmente. Però dico, prima di parlare di questo video, fatemi fare la sinossi, sennò state sparando informazioni e spoiler, vero, e basta. È vero, no? Hai ragione. Non so come siete abituati qua, però no, noi andiamo sono a cazzo. Bravo a fare queste cose. Vai. No, non sono bravo. Non ho capito, Alex. Luca, prima della tua sinossi, che sicuramente funzionerà, io voglio fare una cosa. Io ho capito che il film sarebbe stato problematico quando ho visto prima dei titoli di testa, che non ci sono, quando parlano tutte le sigle Paramount, bla bla bla, bla. Poi a un certo punto Alibaba Movie. Sì, io sì, ho detto, 50 oh, produzioni, porco, è vero, ho pensato la stessa poi, cosa pure io. Mua Mua Cinema, oh porco due, cioè, questa roba qua l'hanno prodotta per i cinesi. Questo io non sono razzista, sono loro che sono cinesi. No, e poi no, Bad Robot si è messa lentamente piano piano all'ultimo, cioè nel senso l'ultima cosa che appare è quella da Bad Robot, ma prima appaiono praticamente 50.000 produzioni di altro spessore, insomma, magari anche de 185 milioni di euro costata sta roba. E dicono che dovrebbe arrivare a 200 milioni di incassi. Quindi in realtà alla fine 20 milioni di utile, insomma, non so quanto gli sia convenuto, però sto ciclo lo dovevano chiudere, quindi infatti è ridicolo. Ma è ridicolo anche perché poi non è il film tra i tre. Allora, diciamo una cosa, per me tra i tre è anche il più decente. Attenzione quello che ho detto, Attenzione, tra i tre. Però è sicuramente quello meno spettacolare, cioè gli altri erano Qui sì, insomma, ci sono stati un quarto d'ora di gran casino, ma insomma, in realtà il primo tempo è l'introspezione di Kirk che glielo del culo de sta mezzo allo spazio perché dicevo io mi sono rotto le palle qua. Ma io... avevi proprio fatto la sinossi, vai, montaggi. Scusa, vai. No, allora, io voglio sentire la sinossi adesso. È vero, hai ragione, no, Luca, scusami. Scusami, l'unica cosa che io so fa è spiegare la sinossi. Mai bene quanto Alan D'Amico quando recensisce le esatto, cose. Però quelle sono recensioni proprio, quindi... Ti ricordi Ghostbusters, la storia di tre laureati che con i soldi di un altro aprono una società. Comunque, la sinossi è questa. Era fantastico. Questo film, per chi non l'ha visto, magari facciamo un breve riepilogo. Comincia con l'Enterprise che sta in giro e Kirk si accorge dopo circa 3 anni che sta in giro che il giorno e la notte non ricapisce più quali sono. Perché evidentemente, non essendo munito di un orologio, non ha mai notato che non tramonta e sorge il sole nello spazio, quindi il concetto di notte e giorno non ci può essere. È un po' comunque, strano, sì. Allora, giustamente, dice, sai che faccio? Mo' mollo. E Spock nel frattempo che dice, sai che faccio? Mo' mollo. Lo dicono contemporaneamente. Però Spock, avendo la gnocca sopra l'Enterprise, ci pensa un po' di più, perché consideriamo che è ancora inspiegabile come la gnocca stia con Spock. Comunque... Che cosa succede? Vanno alla base, questa base praticamente che sembra la città dei Candor in bottiglia, e che succede? Che arriva una tizia dal nulla e dice, aiuto, aiuto, dentro un posto in cui nessuno può arrivare ci sono dei miei amici prigionieri. A quel punto che fai? Verifichi? No, non verifichi. Dice, dammi una cazzo di prova di questa cosa. No, non te la chiedo. O quantomeno organizzati, perché il sospetto perché che ci sia qualcosa che non va ci deve essere, no? Cioè, la federazione si fida perché è loro vero, sono priori, buoni, quindi sì, sono tutti buoni a priori. Ma, certo, ma è risaputo, perché quello, se al posto di quello arrivava quello là, il V-Compra, che gli diceva, compra questo ultimo anello del mondo, e lo compri, perché che non lo compri, no? Ugualmente arriva questa, non è che dici, beh, portami una cazzo di prova, no? Oh, salutiamo Carlo Sant'Agostino, grande. Ciao Carlo Sant'Agostino. Vai, scusa. Allora dice, no, dice, mi porti una prova? No, non te la chiedo una prova. Che facciamo? Pigliamo l'unica nave stellare decente che ci abbiamo e andiamo. Esatto, il meglio te lo diamo così, a gratis. Così, cioè, qua te la mando la nessuna. Che poi neanche uscite. Permettimi Luca, scusa se posso dire una cosa. Sì, sì. In totale controtendenza... Mi dovete interrompere, però almeno... No, dico, in totale controtendenza col primo film. Nero che sta per essere inghiottito da un buco nero, gli dicono che ti serve assistenza? No, allora te bombardiamo... Però Star Trek questa cosa, no? Cioè. No, invece tu qua non capisci perché qua c'è la chiave di volta del film. Allora, sappiamo che il regista di Star Trek è quello di Fast and Furious. Sì. Che cosa fa Fast and Furious? Due cose: macchine e culi. gnocche. Gnocche. Quindi era nero, è arrivato, era brutto. Hanno detto: quello mi date la mano, attacchi al cazzo. È arrivata questa, la gnocca tutta bella in tutina. Cioè, gnocca quella. E dice: che fai? Ce vai? Ce vai. Quindi piglia. Quindi la federazione c'ha la fremite. Dici questo? Perché ricordiamoci che questo film fa un parallelismo col primo film di Star Trek, in cui succede una cosa similare, cioè devono andare a fare una missione con la nave arronzata e ci si buttano. Però Kirk là almeno lo chiede all'equipaggio: volete venire? Questo Kirk qua dice: andiamo, andiamo. E tutti, e nessuno gli dice: armatevi e partiamo. No, perché qualcuno poteva anche dire: dove? Perché non si vede un cazzo. No, no. Andiamo. Scusa, loro sono disciplinati membri della flotta stellare, vanno. E quindi dice: no. Allora, poi là arriva Spock che con la sua logica dovrebbe dire: un attimo, analizziamo. Invece che dice: offuscato dalla gnocca della nera, andiamo. No, infatti. E poi dice: ma siamo sicuri di andare? Lo Spock di questo film, cioè anzi di questi tre film, è il meno Spock che sia mai esistito, perché è talmente confuso dalla fregna che non capisce niente. Cioè, nel senso, è proprio un, vabbè, un idiota. Con Zoe Saldana se ne è confuso pure io, Sì, però è del tutto inutile. Cioè, negli altri film, capitano, ho fatto l'equazione del culo qua che fa quello, fa quell'altro. Ho fatto l'equazione per tornare indietro nel tempo, del qua e dell'acqua. Questo che cazzo fa? Che poi nel film dicono. Vai. Fa di più Scotti, se ci pensate bene. Aspetta, perché Scotti ha la parte fantascientifica di questo film, cioè è un cesso, è vecchio ma rimorca la gnocca. Aspetta, l'ha scritto lui metà di questo film. Quindi se è fatto la parte carina. No, ha scritto metà del secondo e tutto questo, in teoria. No, l'ha scritto in coppia questo. In coppia. Okay. Secondo me sue sono le parti che fanno ridere, conoscendo Simon Pegg. Sempre, sì. Comunque, andiamo avanti veloce, vedi. Così possiamo commentare. Partimo, andiamo dentro sto buco nero. Cioè, che c'è stato dall'altra parte? Trovo un pianeta e nessuno, cioè, a un certo punto vieni attaccato da delle specie di zanzare elettroniche che abbiamo già visto in 500.000 film. Milioni di scienza, esatto. Milioni proprio. E giustamente tu stai su sta nave, con sta tizia qua accanto, non è che gli dici: oh cazzo, ma che c'è fatto cadere in una trappola? Che c'è, no. No, ma lei è sincera. Dopodiché facciamo un salto temporale. Dopo 40 minuti di film esce fuori che Kirk fa: ma io ce lo sapevo che quella è la stronza. E questo già non torna, Dopo che sono morte centinaia di persone e distrutto un'astronave. E quando gli chiedono: ma quando l'hai capito? Fa: già da un po'. Sì, sì. Ma questo per riprendere lo stile kirchiano, che chiaramente qui non c'ha né arte né parte, no? Nel senso, almeno negli altri film un po' te lo giustificavano, perché loro erano arrivati a determinata conclusione o che tattica si erano inventati di nascosto, no? Tipo il film con Khan. Nel film, quello originale, non la stronzata che hanno fatto recentemente, cioè, voglio dire, lì si vedeva che loro architettavano qualcosa. Invece, questo niente, succede di tutto, la gente muore, poi a un certo punto, io ce lo sapevo. Comunque, insomma, vengono attaccati e a questo punto vediamo una scena che è il copia e incolla di quella delle Generazioni, cioè il precipitamento dell'Enterprise. Identico. Addirittura sì, andiamo a staccare la sezione a disco. No, però stacchiamo la sezione a disco nelle navi di quell'epoca, non c'era. Bravo. Non c'era, esatto. Domando se nelle navi Constitution c'è stava il distaccamento del disco, infatti anche ma qua. No, ma certo che no. No. Eppure non lo so, non lo so, devo controllare sta cosa. Ma no, ma guarda, te l'ho detto l'altro giorno. Sant'Agostino ha scritto un poema. Un poema, praticamente. Comunque sia, io l'ho rivisto Next Generation, la prima puntata, incontra Farpoint da poco, e lui dice proprio: numero uno, separi la sezione a disco, visto che questa è la prima nave che può separare la sezione a disco. Quindi non è che, cioè, non esiste sta cosa. Ma poi parliamo di come la separano, qua vorrei che mi aiutate voi. Cioè, con le leve? Sì, certo. Esatto. Certo, ma tutto va a leve, scusate, anche la velocità di curvatura andava sì, a leva. Sì, c'è il coso. Su una leva. Esatto. Una leva. Questa cosa se la sono inventata sul primo film, che poi era bella perché era tipo, come te posso dire, cioè la sensazione che te dai è quando tu tiri il motore del motoscafo, no? È la stessa cosa, frum, capito? Era proprio, e poi dice: ma com'è che non siamo a curvatura? Cioè, che cazzo, vabbè, no? Comunque. Insomma, separi sta cavo di sezione a disco, non si sa bene poi la chi sta dalla parte da prima, se perdono un pezzo. Poi atterrano su sto cazzo di pianeta, ma Scotti si lancia prima, l'unico che c'ha un telecomando, non si sa perché, quello che somiglia molto a quello che ho venduto a Sasso anni fa per la televisione. Quello che chiudeva tutto. Esatto, che a me non mi funzionava, lui funzionava tutto. arrivi sul pianeta, voglio dire, pure là, voglio dire, a quel punto vai dalla tizia e fai, due cazzo ci hai portato, no? E invece no. Però lui aveva già capito, eh. Lui da un po', aveva capito, da un po'. Concludiamo la sinossi veloce del film. Da questo punto in poi non si capisce più un cazzo, fondamentalmente. Esatto. Perché corri, scappa. Motocicletta senza culi, però. Senza culi. Vengo diviso, poi c'è sta, mi dispiace, pace l'anima sua, il tizio è Facekov, che voi dite, è insopportabile, proprio insopportabile. Lo è sempre stato. Capitano, dobbiamo... Cioè, voglio dire, Sulu, che stesso Sulu si è incazzato per la scena omosessuale perché ha detto l'avete fatta proprio male, nonostante lui è omosessuale. No, poi ma stanno, è talmente pezzotta quella cosa che veramente, a parte che nella storia originale Sulu non è omosessuale. Esatto, ma diciamo l'hanno fatto come omaggio, l'hanno fatto come omaggio all'attore. Ma perché? Ma chi t'ha chiesto? Infatti è una cazzata. Perché anche perché ci hanno messo l'unica cosa che ci hanno avuto l'accortezza di metterci la bambina, perché se sa che Icaro Sulu c'ha una figlia che poi diventerà timoniere dell'Enterprise sorcazzo dopo, cioè, quindi vabbè, questo... Comunque concludiamo la sinossi così andiamo al commento, no? A questo punto c'è la fase in cui non si capisce un cazzo, corri scappa, io ce la so più io che te, e a questo punto a un certo punto serve un diversivo, vado con la motocicletta perché trovano questa nave che abbiamo detto, e arriviamo al punto più basso dell'intera cinematografia, ma non a Star Trek, la fanno partire a spinta. Cioè, capito? Vengono condotti da una ragazzina. Ma sono d'accordo, eppure lì, ma se questa ci fidiamo, non si sa. Ma a quel punto come la famo partì? La famo partì come se facevano partire i motorini negli anni 80 da noi. In discesa. Esatto. E a un certo punto tira su la frizione. Ma che esatto, è così, assolutamente così. È così. A me tira su la frizione. Ah, noi ce lo sappiamo, ce la facciamo il cattivo che chiaramente è descritto come il terrorista attuale del mondo moderno, no? Quello che, sì, che non è quello dell'ISIS, ma perché l'ISIS è, in realtà, come dici tu, è americana, movimentata. Fatto sta che alla fine, sai che c'è, io rimango sulla mia nave, Spock, sai che c'è, rimango cagnocca, è stato bello rivederci. No, sì, esatto. Mi distruggono l'Enterprise e fanno... L'Enterprise A. Abbiamo avuto il momento di Trevor. L'Enterprise A, se siamo guardati abbiamo detto no, non è possibile. Ma la cosa fantastica che io ci ho pensato dopo pizzi, e questo chiude tutto, cioè questi si vede che stanno a costruire Enterprise A davanti, che ci dovrebbero mettere 20 anni, così, almeno 10 anni, quindi al prossimo film sono vecchi. Ma sì, ultima, ma in realtà, considerazione, allora, proprio ultima, aspetta. Ultima, e poi ho detto tutto. Spock che tira fuori la foto del cast originale di Star Trek con Nimoy, che non sono loro. Esatto. Che non sono loro. Ho finito. No, prego. Che loro in realtà sono loro. Che a essere loro sono loro. Però vabbè, in un altro universo. Ma lasciamo perdere questo discorso. E mettiamo un attimo di ordine. Allora, Alex, vuoi leggere un attimo il commento di Santa? Oppure. Ci vuoi raccontare che ne pensi di quando la nave stellare viene buttata giù dalla discesa e tira la frizione e parte? Ti prego. A me ha ricordato molto il film Lost in Space, pensa a te come sono messo. Beh, un po', sì. Il tenore era quello, No, ripeto, posso dare un mio giudizio sul film? Aspetta, il giudizio si dà alla fine. Prima di le cose che ti hanno fatto più o meno, insomma... Perché poi... Allora, Justin Lin non è un regista per fare questo tipo di robe. Io mi aspettavo di vedere il miglior film di questa nuova trilogia, invece ho visto quello che mi è piaciuto di meno. Perché non ho capito un cazzo di quello che succedeva. Non è che sarò vecchio, però veramente, cioè, non... è un film di Star Trek dove e non si capisce cosa succede. C'è solo gente che corre male, e poi a un certo punto tirano fuori i Beastie Boys. È vero. Non c'entrano una sega. Cioè, cosa vuol dire mettere? Cioè, è bella la canzone di Beastie Boys, l'adoro, ma non c'entra una sega lì. Posso fare una domanda? La faccio pure a Claudia, perché qui c'è qualcosa che poi alla fine mi è sfuggito. Allora, c'è sta nave, la Franklin, che sono 100 anni che sta là. C'è andata a finire, non si sa come, non si sa quanto ci ha messo di arrivare. E non c'è un filo di polvere dentro, però vabbè. Vabbè, la tipa lì puliva, non c'era un cazzo da fare. Allora, dentro c'era questo equipaggio, che poi penso di aver capito, sono morti tutti, se non mi sbaglio, tranne il capitano e l'altro tizio. Gli altri due cattivissimi. Aspetta. Esatto, i due cattivissimi. E sta ragazza... No, scusa, Pizzi, chi sono gli altri? Allora, sono dei droni. Ah, sono droni. Grazie. Sì, però io ho dovuto leggere una sinossi su internet. Ah, ecco. Ah, io non l'avevo capito. Perché io non l'avevo capito. Io dicevo, ma tutta sta gente qua, da dove cazzo è esatto. uscita? Ma pure quelli che sono, sono droni. Centinaia di migliaia, voglio dire. Non è che uno solo, insomma, no? Perché poi, famosa capisse. Però, vabbè, poi ci arriviamo anche a sta cosa, perché è da capire. Però comunque c'è sta tizia che è nata, cresciuta e vissuta dentro la Franklin. Chiaramente lei dice, è casa mia. Da dove cazzo esce fuori certo. questa? Ma soprattutto, ma perché, non... perché c'è un pallone Nike in faccia? Ma soprattutto, vabbè, ma soprattutto, chi cazzo gliel'ha insegnato a combattere che è da sola da 20 anni? Ma chi ha insegnato cioè, adesso... a parlare pure? No, ma a parlare no, nel senso che lei dice che il padre l'ha fatta fuggire, quindi si suppone che lei fosse, avesse 5 o 6 anni quando è successa sta cosa, visto che se la ricorda. E qui è una situazione da Aliens contro finale. Io. Esatto, però da lì in poi questa ha imparato da sola a fare l'ingegnere, a riparare le navi, a costruire dal niente dei proiettori olografici, perché non dimentichiamoci che ai tempi della Franklin i proiettori olografici assolutamente non esistevano. No. Esatto. Nella tecnologia della federazione non esistono. Ossia esistevano, ma non nella federazione. Non è la federazione, però okay, perdonami, ma lei dice... tutti i personaggi di questo Star Trek sanno fare tutto senza un minimo di... cioè Scotty è tipo Mr. Magoo. Vabbè, cioè, Scotty lo era pure prima. Dice, beh, mica così però, chiunque d'accordo, però Scotty puoi anche pensare che abbia un background di anni e anni di studi. Lei ti dice che è lì da 20 anni da sola e sa combattere come un perfetto guerriero. È un grandioso ingegnere, cioè adesso va bene. Poi si è fatta però. Un'arma che... anche lì non è mi sembrava una dotazione da flotta stellare, insomma che non è la sua, cioè ma sì, ma infatti non, ma poi non capisco che razza è, chi era, cioè perché stava in un equipaggio della flotta stellare, cioè no, ma lei non era in un equipaggio della flotta stellare, lei dice che è precipitata con la sua famiglia con una nave, i suoi sono stati tutti presi prigionieri, il padre è riuscito a far scappare lei, gli altri sono stati fatti ammazzare, quindi loro avevano una nave loro, però come ha fatto lei a imparare da sola la lingua e a capirci qualche cosa dell'altro. Scusa, Claudio, io ho una domanda però a sto punto. Beh, magari c'è il computer, che ne sa, No, ma scusa, ma allora... Se... Nettuno, come esatto, Rai 1, esatto. Tu guardi di notte, lei sta su 15, esatto. 50, impara tutto però, guardando queste cose. Però la domanda che mi viene in mente è questa, no? Se questa praticamente è stata liberata, no? E quindi vive da sole, perché va a ingannare Kirk per portarlo là? Qual era la promessa? Cioè, perché? No, che ma io sto parlando di quella bianca e nera, no? Quella bianca e nera. Ah, no. Ah, perché quella è un'altra? Sì, è un'altra. È vero, è un'altra, è vero. Già tolta la casciola, ma allora c'è. Cioè, Luca, sono tutti uguali. No, non tutto sono quello tutto che hai uguale. Detto perde di significato. Dice, vero, vabbè, ma ragione. Forse mi è sfuggito qualcosa nel film. Comunque, poi io voglio capire un'altra cosa. Se capivo, cazzo. E faccio l'ultima domanda a Claudia. Sto tipo, il capitano della Franklin, che poi è diventato il mostro cattivo che vuole ammazzare tutti, sta incazzato e vuole distruggere con la federazione perché la federazione non è andata a prendere. Cioè questo è il succo del film. Ma non solo, perché non è andata a prenderlo e soprattutto perché comunque lui è finito lì perché era dove non doveva essere, cioè al comando di un'astronave pacifica invece che a fare la guerra da qualche parte, certo, mi dovevo buttare bombe da qualche comunque, parte, insomma. Comunque esatto, fatto cioè... del tradimento alla federazione è un tema ricorrente, perché se vi ricordate c'era pure in Nemesis sì. e pure in Insurrection, tutte e due. Ma proprio... infatti a me sembra che alle volte fanno veramente dei minestroni di robe prese da poco prima. Beh, però insomma non in particolare ma scusate, anche l'eterna giovinezza di questo qui è in cattivo. Però è la stessa cosa di quelli lì che non invecchiavano mai. È vero, quelli di Insurrection, è vero. Insurrection, cioè fondamentalmente lo stesso concetto. C'è brutto film Insurrection. Che poi c'erano anche i cattivi che non invecchiavano mai, ma diventavano brutti. Perché guarda, sì, non che questo fosse figo, ecco. Ti dico, che Insurrection era un brutto film, ma io preferisco sempre. Mi dispiace. Ma Insurrection non è un brutto film, però. Insurrection è una puntata troppo lunga. Un episodio esteso, esatto, sì. Vabbè, ma anche questo è un po' un episodio esteso. L'unica cosa è che questo film ha l'accortezza di provare a fare anche delle citazioni. Cioè, nel senso, cerca di essere Trek questo film, ci prova un pochino. Perché, vabbè. Allora, innanzitutto, i riferimenti alla serie Enterprise sono tantissimi, no? Cioè, già quella specie di uniforme che si mette Kirk a un certo punto, non si sa per quale ragione, è praticamente richiama le vecchie uniformi che c'erano su Enterprise. Poi c'erano queste altre. Non si capisce com'è possibile che questi sono entrati dentro le capsule con la tuta normale e in una capsula dove non c'erano 5 centimetri di spazio. Hanno cambiato vestito. Magia. Esatto. E questo succede anche in Star Trek Motion Picture, in cui Kirk la scena prima c'era la cosa a maniche lunghe, la scena dopo c'era la cosa a maniche corte e bianca. Ma questo viene giustificato nel romanzo di Star Trek Motion Picture, dove spiegano che le tute venivano materializzate e smaterializzate come... Non dire queste come cose. Il risequenziatore di proteine. Vabbè, okay. Come si chiamava il coso lì che riproduceva gli oggetti, faceva la stessa cosa con gli uniformi. Li materializzava e smaterializzava addosso. Claudia, ma non dire mai queste cose a Pizzi, perché una volta gli ho detto: sai, Lost, non l'hai capito perché c'è il libro, è partito. Devo prendere un libro perché è un film, continuo. È un fallimento. No, ma sono d'accordo. Continuo a sostenere questa tesi, perché se tu mi racconti un film, mi racconti un film, altrimenti sai, cioè, tutta questa opera transmediatica che fa Abrams, uno lo fa per fare i soldi e va bene, ci sta, ma anche perché se non sei un professionista nato per scrivere un film, non sei capace a raccontare le cose dentro un film. Io un film può avere anche dei seguiti, ma tu quel film ci deve avere un inizio e una fine nel quale tu mi hai spiegato tutto, ho fatto capire le cose. Sono d'accordo. Cioè il Lost, ma in realtà sono d'accordo con te. A parte Lost, che c'è una deriva ridicola alla fine, cioè io il finale da chiesa, tutti che si abbracciano e se vanno bene, dovete morire, no? Che dovete abbracciarvi, cioè, ma che è sta cazzata? Cioè, voglio dire, comunque, guarda, al di là di questo, vabbè, comunque abbiamo capito che sto cattivo... cosa, Claudia? Sì, ma perché chiedete tutto a me? Sì, perché tu sei l'ospite. Poi Alex, a parte Alex lo possiamo rivedere, no? Nel senso, te chissà quando. Poi Alex ha detto: sei iper esperta. Quindi qual è il film che ti piace di più di tutti i film di Star Trek? Allora, secondo te, quello più bello e quello più brutto, visto che ce l'hanno chiesto pure in charge i più brutti, qual è il più brutto e il più bello? Allora, il più brutto è una lotta. Il più bello non lo so, però quello che io posso dirti, quello che a me è piaciuto di più, che è stato il quarto, Rotta verso la Terra, l'ho trovato molto divertente. Quello che tornano dietro è più tempo, una cosa di c'era la balena, non so come dire, che secondo me aveva delle cose carine. E quindi è forse quello che io ho amato di più. Poi non so dirti se è il più bello, però è quello che a me ha dato più soddisfazione quando l'ho visto. Posso rispondere? Il più brutto sembrerebbe quest'ultimo, comunque. No, è il numero 5. No, il più brutto è Star Trek 5 sopra ogni cosa. Non sono d'accordo con te. Quello dove vanno a cercare Dio, che in realtà era uno stronzo. Sì, gran cagata. Sì, quello è il più brutto. Paura che balla. Quello, esatto, non sono bravo. D'accordo. Non sono d'accordo. No, dai, quello è il più brutto in assoluto. Cioè, no, proprio... però secondo me è più brutto quest'ultimo, perché quello c'ha comunque una scena che vale tutto il film. Quando Kirk arriva davanti a Dio e Dio gli fa: dammi la tua nave, e lui fa: posso fare una domanda? Perché se sei Dio vuoi la mia nave? E McCoy gli fa: ma non si chiede la carta d'identità al Signore? Sì, e lui fa: è una cagata, ma solo per... Sì, no, però è quello più bello. Anche Sant'Agostino è d'accordo con noi, è il quinto è il più brutto. E secondo me il più bello invece è Rotta verso l'ignoto, quello che c'è tutta la cosa, l'investigazione su chi è che ha attaccato chi, quando Kirk viene fatto prigioniero. Quello è un po' il film, diciamo, non elevato, perché comunque però è pieno di citazioni, di riferimenti, insomma non era male come tipo di film. No, poi, è carino, poi secondo me è abbastanza, effettivamente è molto spirito Star Trek originale, sì, diciamo. Sono troppo era ben vecchi, strutturato però, comunque. Vabbè, ma cosa vuol dire? Non ha importanza. Ma loro stessi lo dicono, funziona. No? Cioè loro nei film lo stessi dicono. Lo dicono, esatto. Cioè siamo forse diventati troppo vecchi da essere sopravvissuti alla nostra stessa utilità. Cioè una frase io non mi dimenticherò, cioè proprio mai. Cioè, bellissimo il dialogo tra Kirk e Spock proprio su questo argomento qua, insomma. Però manca comunque. Alex, però. Vale, Alex. Allora, i miei più belli sono l'uno e il due. Cioè perché li ho visti quando ero giovane, era proprio un tipo di fantascienza che mi era piaciuta tanto. Il primo perché era proprio per certi versi epico, e poi devo dire c'è Robert Wise che ha fatto tutt'altro, comunque ha fatto delle inquadrature della Madonna. Io sai che l'ho rivisto ieri era sera. Un po' lento il primo, cioè solo sto difendendo. È lento, semplicemente che ti fa vedere Enterprise da tutte le angolazioni, sì, perché erano 12 anni che nessuno l'aveva mai vista così, però tu immagina nel 77 come poteva essere bello. No, ma ci stava, però era oggettivamente... Poi è cinema quello. Cioè, se, esatto, sì, sì, però se gli levi 10 minuti a quel film non gli hai fatto male, cioè, capito? No, però è cinema. È cinema, quello è cinema. E invece per certi versi l'ira di Khan, perché Genesis secondo me ancora oggi quando ci penso dico minchia, ma che figata, sì, sì, è vero. Bravo. Pure quella cosa l'abbiamo vista praticamente il 200 fatto che cose muoia, dopo. Che muoia Spock e poi c'è la parte di spazio ultima frontiera detto da lui dopo che appunto fosse morto, era molto mistica e trascendente, devo dire che i primi due mi hanno dato veramente tanto, poi dopo il 3 terrificante, il 4 mi è piaciuto, il 5 penso che si siano vergognati loro stessi di averlo fatto, il 6 bello, poi dopo no, quelli di Next Generation non mi hanno mai dato tanto amore, e Primo Contatto che piace a tutti, a me non piace molto. Comunque, Primo Contatto di forse più generazioni, allora, perché c'è la lacrimuccia con Kirk, capito? Allora un po' così. Comunque la storia di Genesis è stata praticamente saccheggiata da qualunque, persino nella quarta stagione di Arrow. Cioè, vi dico questo, per chi non l'ha vista, da quarta giuria, cioè, e si chiama proprio Progetto Genesi, pure là, in cui il cattivo di turno decide di terraformare il pianeta Terra e via dicendo. Quindi, però effettivamente si autosaccheggiano, come dice pure Pizzi, perché come dice Clario, questo film è un autosaccheggio di cose che abbiamo visto. Ok, vi faccio le ultime due domande a tutti quanti. Scusa Claudia, ti ho parlato sopra. Però vi faccio... No, ho detto solo che è un grande collage, effettivamente. Arrow? No. Quest'ultimo film è talmente pieno di... Sì, sì, ci ha buttato dentro tutto nel modo sbagliato, tra l'altro, quindi... Però vabbè, comunque anche il primo del GJ gareggia forte, beh, sono dei più brutti. Alex Raccuglia, perché allora, secondo questo comunque, film... Prima della domanda, secondo me il secondo... Qua mo mi attirerò l'antipatia di qualcuno. Viene salvato unicamente per la presenza di Cumberbatch e basta. Sì, ma il film è merda. Il film è veramente merda. Mi dispiace, non sono d'accordo. Cumberbatch con... Lui è grandioso, un attore che mi piace da impazzire, ma con Khan c'entra come un cazzo, a merenda. Non c'entra niente. Però allora, se ti piace fare i pompini, i cazzi a merenda stanno benissimo. Se invece non ti piace... hanno battuto le mani, c'è la standing ovation, tutto il pubblico di Morti di Bestemmia in piedi in questo momento, grande. No, ce la puoi ripetere un attimo questa cosa? Paganini non ripete neanche Badavalle. Paganini non ripete, qualche volta non dice proprio. Comunque, io ho detto camera perché nel senso che comunque in mezzo a quegli attori mediocri, a parte McCoy che secondo me è l'unico che si salva dentro tutti quegli attori che ha preso un po' il personaggio, lui emerge solo perché è un attore bravo, non perché abbia lui, no, ma infatti lui è bravissimo, secondo me è bravissimo, però veramente come nel personaggio non c'è, cioè non c'è nessuna attinenza tra Khan e lui, nessuna. Mi dispiace, però assolutamente, ma anche lui secondo me non riesce a dargli, ma secondo me gliene frega proprio niente, cioè detto fra noi, no. Anche secondo me non gli interessava particolarmente, era stata un po' un'occasione sprecata. Comunque, allora, dato che Luca me l'ha ricordato sull'evento di questa puntata, abbiamo fatto un sondaggio dove abbiamo detto quale dei membri di questo equipaggio della nuova trilogia è più aderente al personaggio originale della serie classica originale, insomma. E vabbè, ci sono tutti quanti. In realtà, vabbè, per voi qual è quello più simile al personaggio originale? Secondo me è McCoy, ed è anche l'unico che si salva. McCoy, sono d'accordo. Infatti, in questo film, secondo me, è proprio spettacolare rispetto a tutti gli altri, cioè lui è proprio calato nel ruolo bene, gli altri a parte che sembra imbolsiti e invecchiati, cioè il tizio di Vaspock sembra pure ingrassato. No, mia mamma lo diceva, è uscito, ma è vero che è ingrassato, tutti. Si vede, vedi, cioè. Il benessere, no ragazzi, 3 anni nello spazio a non fare un cazzo, grazie. È vero, c'ha ragione Kirk, infatti. Cioè, comunque il sondaggio vince a mani basse McCoy praticamente col 95% dei voti, quindi in realtà qualcuno ha scritto Kirk qualcuno ha scritto, forse Scotti, adesso non ricordo, ma uno su uno, in realtà tutti gli altri hanno votato McCoy, e in effetti perché secondo me ovviamente c'è proprio uno stacco rispetto agli altri, cioè quell'attore l'ha preso proprio bene. Sì, ma anche il personaggio gli è scritto Spock, giusto, Kirk. Gli altri sono riscritti completamente, cioè, gli altri proprio, cioè, zero. Comunque vabbè, veniamo alle ultime due domande, così almeno poi chiudiamo la trasmissione. Allora, partendo da Alex Raccuglia, qual è il motivo per cui questo film deve morire di bestemmie? Perché è raffazzonato, racconta una storia male, e la regia secondo me non sostiene questo film. Justin Lin già può fare Fast and Furious, ma non può fare Star Trek. Secondo me sono due cose diverse e non possono essere affrontate con lo stesso linguaggio. La cosa che mi è piaciuta, fammi pensare, beh, le donne sono queste tutte fighe, devo dire la verità. Vabbè, ma queste sono le donne, sono due in totale. No. Ora, minchia dura, sì, ci sta benissimo. La tipa che li tradisce anche, la tipa Nike col pallone della Nike anche, per cui devo dire che le donne ci vanno tutte. Però io spezzo una lancia a favore di quella con la testa d'alien che si apre e nasconde il coso. Bello. Vero. Sì. Oh, ragazzi, un po' di creatività, sì, è vero. Quella è una pensata geniale. Sì, quella è vero, assolutamente. Io non posso fare. Quella è l'equivalente del... È l'equivalente del 23° secolo che mi sono infilato l'orologio su per il culo per 4 anni. Cioè, dai. È geniale. Okay. Claudia, per te, per quale motivo questo film deve morire di bestemmia? Allora, ce ne sarebbero tantissimi, infinito, ma quello secondo me più grave in assoluto è l'idea che Kirk, dopo 3 anni di missione quinquennale, vuole mollare tutto perché si è rotto il cazzo. Adesso, perché, va bene tu? Perché scambia il giorno perché con la notte. No, ma perché si annoia, eccetera. Ragazzi, ma seriamente, Kirk, a parte che se ne trombava una diversa in ogni puntata, tra cui Principesse Stellari, eccetera, eccetera. Invece qui niente, lui sta sempre in magra. Qui niente. Niente, allora, persino Spock trombava più di lui, esatto, ma non solo. Se voi andate a vedere i due attori, l'attore della serie originale, William Shatner, per carità, grande affetto nei suoi confronti, ma non è che proprio fosse l'uomo più bello e affascinante del mondo. Chris Pine forse è un filino meglio, no? No, questa me la cacciate, non tromba, questa me la cacciate. Dai ragazzi, no, non ha senso. Ok, senso. Luca. Da donna dico che non ha senso. Da donna. Ascolta, no, però è la realtà che erano altri tempi. In quegli anni, fondamentalmente, era lecito, anzi, era consentito, anzi, era se il capo non dava la pacca sul culo alla segretaria, era un problema per la segretaria. Per cui detto, il capo doveva trombare. Adesso invece siamo in epoca di politica correct, per cui un attore gay deve fare l'attore etero e trombarsi una che, anche se lui non dovrebbe avere sentimenti, però è innamorato, eccetera, eccetera, esatto, eccetera. Esatto. Un attore gay che dovrebbe interpretare un personaggio, anzi, un attore etero dovrebbe interpretare un personaggio etero per omaggiare un personaggio gay, diventa automaticamente gay, cioè diventa il politically correct all'ennesima potenza, perché appunto, come ricordate, Make the Federazione Great Again, e tutto questo fa un grande calderone di buoni sentimenti che ci hanno anche un po' rotto il cazzo. Ecco, diglielo un po', che cazzo. Cioè, comunque, in realtà i vulcaniani non è che non provano sentimenti, ma controllano, reprimono i sentimenti. Questa è una cosa che va precisata. Su questo posso dire una cosa io precisa, eh? Vai. Posso? Vai. I vulcaniani, come mi ha insegnato mio fratello, Spock è modellato sugli stoicismi, sullo stoico. Sì, esatto. Ok? Quindi in realtà lo stoico ha le sue pulsioni, ma le controlla. Esatto. Quindi in effetti... anche se la deriva di Spock è un po' diversa, che essendo per metà umano, però lo stoicismo dice appunto che tu ce le puoi avere le pulsioni, però le devi controllare, nel senso, te stai con tua moglie, secondo gli stoici tu puoi anche guardare le altre donne, puoi manifestare, diciamo, vedi che culo che c'ha quella, però devi essere consapevole che non puoi toccare il culo che c'ha quella. Bravi gli stoici, gente che ci sapeva, però si può guardare, allora sono stoicissimo, ragazzi, si può guardare. Perché se in praticamente poi là dovreste andarvi a sentire Multimania quando mai uscirà, perché abbiamo fatto la puntata proprio su sta roba, che però io mi sono scordato di registrare una traccia, quindi ci sta lavorando il mio collega. Lui dice, cioè, tu guardi il culo di quella, no? Quindi se tu non lo guardi, stai negando una cosa, stai facendo una cosa che è contro la tua natura. Invece no, la tua natura è che tu lo guardi, quindi non negare che lo guardi, però poi non lo puoi toccare, in sostanza. Ok, questi sono i vulcaniani. E Luca, per quale motivo questo film deve morire di bestemmia? Ah, il motivo onestamente era quello che ha detto Alex, quindi me l'ha tolto, perché a me gli americani hanno rotto il cazzo con questa storia di sto buonismo dei terroristi che sono cattivi e brutti e quelli che sono omosessuali siamo carini e facciamo vedere, hanno un prodotto il cazzo, onestamente. Eppure già da Enterprise alla fine questa influenza dell'11 settembre l'ha subita pure Star Trek inevitabilmente, purtroppo, perché comunque, ma l'ha assorbito anche Guerre Stellari, già Guerre Stellari è sti cazzi, va bene, cioè. Comunque sia, per me deve morire dei bestemmi per due motivi. Il primo, perché non si accende un'astronave buttandola giù dalla discesa e tirando sulla frizione. Questa è la cosa proprio che non passa proprio, non ce la posso fare. Questa cosa non ce la faccio. La seconda cosa è che hanno rotto le palle con questa storia che non bisogna fare una trama in un film, non bisogna controllare la sceneggiatura dopo che l'hai scritta. Questo è, quindi hai scritto una sceneggiatura e rileggi della prima di fare un film, no? Vedrai che ci sono un po' di punti. Gira. Che è? È vero, hai ragione. Ok, veniamo. Nel senso, come dici tu, cioè nel senso, non stai a guardare. Pronta la generatura? Sì, gira la generatura. Che cazzo ne frega? L'abbiamo visto in Superman Man of Steel e il seguito. Cioè, abbiamo fatto un film, ma io mi immagino quelli e finisco. Ma cazzo, ma tu l'hai vista? Cioè, no, ma tu l'hai guardata? No, pensavo avessi fatto tu. Cioè, sì. Oppure, che ne so, tu l'ultimo Capitano America, ma tu l'hai letta? No, ma manco io, eh. Vabbè, sti cazzi, tanto non se ne accorge nessuno. E quindi andiamo alla fase finale. Se non se ne accorge nessuno, ci devi mettere i culi e le tette. Qui invece qui manco quelli, manco quelli. Grossa delusione. Quindi, infatti, se tu a Star Trek di questo livello ci metti un po' di beach slap, a quel punto un po' diventa più interessante. A questo punto, domandona finale, e che non c'entra niente col film che abbiamo visto, orribilante. Come sappiamo, a questo punto lo diciamo perché tanto fa parte insomma dell'universo, come sappiamo a gennaio del 2017 parte questa nuova serie televisiva della CBS, Star Trek Discovery, quindi la nuova nave. Li aspettiamo al varco. Li aspettiamo. Sono uscite altre indiscrezioni, hai visto? Sì, vai. No, dico, sono uscite altre indiscrezioni quello che andremo a vedere. Ah sì, perché sarà un equipaggio nuovo, che sarà una nave nuova. Hanno fatto una specie di trailer. No, hanno fatto vedere la nave. Hanno detto, però quella non è la nave, perché ci è venuta male, c'avevamo poco tempo. Quindi non partiamo bene. Voglio specificare subito una cosa su questo qua. Non è proprio la computer graphic che avremo. No, anche perché fa schifo. Cioè, oggettivamente se quello è il livello produttivo, stiamo messi proprio male. Diciamo una cosa, detto, c'è venuta male. Che già dal teaser noi abbiamo visto delle immagini molto pezzotte. Allora, sappiamo che la CBS c'ha la fretta di far uscire cose perché comunque vuole creare l'hype. Sappiamo che questa serie televisiva doveva uscire a 6 mesi di distanza dal film per un accordo con la Paramount. Sappiamo anche che sarà un nuovo equipaggio, sarà una unica stagione di 13 puntate con opzione di rinnovo se poi le cose vanno bene. Sappiamo tante cose, sappiamo che potrebbe in teoria ambientarsi dopo la fine della zona neutrale con i Klingon, quindi praticamente dopo l'ultimo film della serie classica, però poi da qua in poi noi non sappiamo niente. Fanno uscire fuori questi teaser dove abbiamo visto una nave che è chiaramente un incrocio tra una nave Klingon e una nave della flotta, dove c'è la sezione però a disco che c'ha pure i bordi per spade là, se vuoi, perché c'è un po' lo spin-off, sì, Star Trek Master Chef. Fa ridere. Sì, ma fa ridere il fatto che hanno fatto sta roba e gli hanno detto guardate che è brutta, e loro hanno detto lo so, ma non c'avevamo tempo. A me la cosa veramente che mi preoccupa, e qui lo posso dire, è che magari produttivamente sarà interessante, cioè nel senso scriveranno belle storie, voglio essere fiducioso perché la CBS ha detto per noi, per Paramount Star Trek è un'opera cinematografica, per noi della CBS Star Trek è un'opera televisiva e noi riprenderemo in teoria la linea normale, questo da quello che si è capito. A me la cosa che mi preoccupa, lo giriamo in 4/3, ti è vaffanculo anche, no, ma la cosa che mi preoccupa è che questi iniziano a girare a ottobre, cioè ottobre, vero, novembre e dicembre, poi gennaio esce. La dovrebbero rilasciare tutta insieme come Netflix. No, questo probabilmente c'è la rilascio settimanale quasi sicuramente. Ti dico sicuro? Perché guarda che il canale dove vai è un CBS online, non è il CBS. Sì, però dovrebbe uscire sempre. Guarda, l'ho letto da qualche parte, è stato specificato. Dovrebbe uscire una puntata a settimana. Comunque, tre mesi, quattro mesi non mi pare tanto tempo, quindi se farà schifo ti diranno ma ci abbiamo avuto tanto tempo. Ho capito, ma chi ti ha fatto fa? Cioè, voglio dire, nel senso, potevano iniziare già a girarla sta cosa, anche perché tra quello che tu giri, la post-produzione, il compositing, effetti speciali, la CGI, cazzi e mazzi, cioè, ma che cazzo vanno a fare questi? Mi ricordo che quando chiusero Enterprise, Sci-Fi Channel andò lì e disse, guardate, dateci a noi, la finiamo noi, continuiamo noi la storia. E quello disse, cazzo vuoi, tu, Sci-Fi Channel, quello che tu spendi per fare un'intera serie, noi ci famo una puntata, perché fanno pure i sboroni, capito? Poi oggi mi viene a fare una serie televisiva che so 20 anni che la gente sta aspettando, perché veramente io penso c'è sta gente che sta aspettando, perché comunque Star Trek è un'opera televisiva, e te vedi queste cose un po' pezzotte che ti fanno un po' paura, capito? Cioè, perché boh, non lo so, che impressione ci avete, Alex? Ma sinceramente, quando è venuto fuori quello schermo, no, quando è venuto fuori quella scena dell'astronave che esce fuori dall'hangar, c'era scritto grafica in game, e questo mi ha fatto capire tutto. Non avete capito? No, sì, no. Io l'ho capita, perché è proprio da motore grafico del videogioco. Però non faceva ridere, va bene, ok. No. Però l'aveva già detto qualcuno sul gruppo dei Videoludica, questa cosa. Ah sì? No, sì. No, non lo sapevo, scusa. No, però... Come si dice? Non lo so, quello che ho visto non è neanche un teaser, è un sticazzing, per cui non so. Non credo, proprio non credo neanche morto, che se girano a ottobre sta roba esce a gennaio dell'anno successivo. Oppure, se lo fanno una cosa talmente di cacca, fatta apposta per poter rinnovare i diritti. Non so, per esempio, quando hanno fatto il film su Fantastici, tu dici, perché c'è la paura che gli scade il franchise. Magari hanno fatto questa cosa qua, da spendiamoci 50.000 euro per dire tanto, facciamo questa scena qui dell'Enterprise, e poi dopo il resto fan film con la gente vestita con le magliette della... Esce a gennaio persona. Sicuro, perché è stata annunciata pure la data, cioè, quindi proprio non, su questo non è la data del merda. Trailer, dai. No. Senti, ma vabbè. Ma posso fare una domanda io prima che chiudiamo? Sì, no, volevo sentire prima però l'impressione di Claudia, poi dopo fai la domanda. Ah, sì, scusa. Vai, no, Claudia. Il problema è che io non l'ho vista. Non l'ho ancora visto il trailer. Ma perché ti sei rifiutata o perché non ti è capitato? No, perché non mi è capitato. Sto vivendo un periodo lavorativo un po' incasinato, adesso a parte gli scherzi, e tutte le volte dico, lo faccio, e poi mi telefono a qualcuno. Allora, scusa, c'è un'urgenza. Allora, mentre Alex te lo fa vedere senza volume, chiediamo pure le impressioni invece a Luca, e poi Luca fa la domanda. Pizzi. No, adesso mentre... no, perché ragazzi, se tolgo la mano dal coso del... Ok, va bene. L'auricolare mi sparisce tutto. Quindi... Posso fare un riassunto delle ultime parole che avete detto? Sì. Sì. Mentre adesso Alex te lo fa vedere e tu hai detto, se tolgo la mano adesso è un problema, non so, vedete un po' voi. In effetti sì, l'auricolare, ragazzi. Ho capito, uno ha detto Alex te lo fa vedere e tu, scusa, se tolgo la mano è un problema. Vediamo alle tue impressioni, Luca. No, è una merda, io voglio fare una domanda più sensata, più ampio raggio. Io, se ho due registi nella stessa trasmissione, una volta la voglio fare questa domanda. Tutta sta roba per me non è cinema, ma secondo voi prima o poi lo rivedremo il cinema? Star Trek? No, in generale, lui dice in generale. Perché io non lo vedo proprio più da nessuna parte, non so tu, ma io, cioè, tutto quello che è mainstream non è più cinema, cioè... Nel senso, andare a vedere il film cecoslovacco con i sottotitoli in russo come quando ero piccolo, no? Però non è cinema. Ci sarà? No, sono abbastanza d'accordo che... Sento quello che io provavo una volta ben lontano, cioè se uno va a cercare un film d'autore magari la cosa la trova sul cinema mainstream, che è tarato appunto per la media dei cinesi. Infatti, devo dire che io Guerre Stellari episodio 7 a me è piaciuto rispetto a tutta la media di cagate che vedo in giro, cioè mentre Pizzi l'ha sepolto di bestemmie, io l'ho salvato. Non mi ricordo l'ultima cosa figa che ho visto, che mi sono detto che bello, pure se non film. Ah no, è Mad Max, ecco, Mad Max. Ah, Mad Max, hai ragione. Però Mad Max è bello, è bello fotograficamente, ma a livello di sostanza. No, Mad Max è cinema, no. È stato puro. No, però dai. È cinema, su quello è vero. È cinema. Cioè, ma, ragazzi, aspetta, questo qui, però, il regista è un vecchio di 70 anni che ha fatto il più grande film d'azione di sempre, in cui si capisce tutto. Sto già vero. Con 185 milioni di dollari, non doveva neanche inventarsi tante cose, non si capisce una sega, scusami, ma a questo punto, cioè, io pensavo che il cinema d'azione fosse morto, cioè il... Come si chiama il regista? Non ho... Oddio, sì, non mi viene in mente, ma te lo dico. Miller. Miller ha detto no, no, si può fare e si fa così, grande cazzo. Allora questa cosa ha riaperto ha rimescolato le carte, ha detto questa cosa si può fare e si deve fare a questo punto. È vero. Però nell'era quest'anno, giusto per venire incontro a quello che dice giustamente Luca, l'osservazione migliore è che comunque il mainstream in generale, comunque queste esigenze commerciali stanno veramente un po' sbragando tutto. Cioè, se io penso che deve uscire un Blade Runner 2, che porco 2, oh, porca merda, che, porco il cazzo, no, esatto, no. A parte il problema non è tanto il problema non è tanto Harrison Ford che c'ha 70-50 milioni di anni, il problema è che Blade Runner non ha bisogno di un seguito, cioè nel senso, no, che cosa mi vuoi raccontare? No, non solo non ha bisogno di un seguito, non ha bisogno di un remake. Se lo fanno, io giuro che metto una bomba nella casa di produzione. Ma lo fanno purtroppo. È già ma non è un remake. Guarda, adesso, però, guarda che adesso sei segnata. La CIA ho detto bomba. Bomba e casa di produzione. Esatto. Comunque, ragazzi, io non so voi, ma io sono terrorizzata da Ghostbusters. Da Ghosbusters 2. Esatto. Cioè, in realtà, vabbè, io lì non ce vado. Proprio. Il trailer è molto carino. Però non lo so, non si può toccare Ghostbusters. Come comunque si fa? Hanno toccato tante cose che non si potevano toccare, toccate lo stesso. Hanno toccato Minority Report, che non è cinema, però ci hanno fatto una serie che è più de merda del film che hanno tirato fuori. No, infatti mi rifiuto di vedere. Io l'ho vista. Non ce la posso fare. È una cosa terrificante. Quindi il cinema adesso lo trovi nelle serie televisive. Okay, Carmine ci dice che il film di Ghostbusters nuovo non è brutto, l'ho appena visto. Carmine, tu lo sai che io c'ho rispetto per te, te voglio bene. Però. Ma lo sai che molti me l'hanno detto. Ma non me ne frega un cazzo. Cioè, hai sbagliato il presupposto. Esatto, che non allora, è Ghostbusters. Può essere anche bello. È come il primo film di Star Trek di J.J. Abrams. Vuoi un bel film sci-fi con i botti, le scuregge, quello che la gente che vola fuori dalle astronavi, vai per la tua strada, fai quello che te pare, ma non rompere il cazzo delle cose che esistono da 50 anni e tu devi andare lì a mettere il dito al culo, perché poi allora, oddio, questo dal primo film voleva distruggere l'Enterprise, voleva distruggere la Federazione, ha distrutto Vulcano, perché poi infatti ha distrutto Vulcano. Regà. Voi, quando io lo dicevo 3-4 anni fa, c'è nuovo Vulcano. Sì, ho capito, ma è una cazzata. Cioè, voi non vi rendete conto il danno incalcolabile che potrebbe essere, voglio dire, l'inesistenza del Vulcano. È una stronzata, cioè, non siamo. Quindi, qui devono mettere le mani dappertutto, raschiando il barile, perché non hanno il minimo coraggio di crearsi niente di nuovo. Se gli va, vanno a riprendere Simon Templar, vanno a riprendere, però scusa Pizzi, che ne so, il tuo ragionamento decade su quello che ha detto Alex prima, che hanno ripreso Mad Max e hanno fatto più bello di quelli vecchi, ed è stata un'eccezione. È perché l'hanno dato in mano a un regista che fa cinema, ma è lui l'autore, a parte quello Max, cioè. Però vedi, se tu Star Trek lo dai in mano invece che al regista di Fast and Furious, lo dai in mano a qualcuno che ha fatto dei film interessanti, di livello, vedi che comunque un po' meglio viene. Ma non lo so, io veramente oggi... Eh sì, se tu lo dai in mano a Miller, pure cioè, se è suo, se io penso, al film di Star Wars che deve uscire quest'inverno e vedo un primo trailer dove c'è un aspetto dark un po' tetro, un po' scuro, che è vero che è un po' in contrapposizione con Star Wars, però è vero pure che gli dava un carisma, gli dava un fascino, dicevo, oh, cazzo, però finalmente una cosa un po' più meno, comunque, come meno dice Jar Jar Binks. Fammi finire. Dopo vengo a sapere che sto film viene rigirato per il 50% perché Disney ha deciso che è troppo dark. Non è una questione di quello, come dice Luca, se dai in mano A o se dai in mano A. Qui il problema sono le produzioni. Questi non vanno cacciare i soldi per fare le merde e basta, perché probabilmente oggi il mercato sono i cinesi vanno la cosa allegra che gliela spieghi tutta, perché tanto magari così la vanno, e noi oramai famo questo. Però se questo era lo scopo, questo film non c'è riuscito, perché non si capiva una sega. Cioè, questo vabbè, però lui lo spiega, però il cattivo alla fine te lo spiega, te lo dice il perché, capito? Cioè, non è che lo spiegone. Il suo spiegone te lo fa sempre. Cioè, lascia perdere che non abbiamo capito. Però lui te lo dice: io ho fatto la guerra, ho fatto di qua, ho fatto di là. Poi mi hanno detto che non devo fare più la guerra e mi hanno dato la nave. E quindi la federazione deve morire bestemmie. Questo è un po' il concetto. Insomma, ha detto. Quindi, comunque, Carlo Sant'Agostino ha detto che il cinema è vero è Sharknado. E io sono d'accordo. Bravo. Questo sono d'accordo più. E anche io qui, stando mia mamma Innovation, ha detto che è bellissimo. Tutti in piedi. E nessuno ha ancora visto Mega Shark contro Mecha Shark, che è ancora più bello. Vero. No, io ho visto Mega Shark contro Mecha Shark. Esatto, è bello quello. Bellissimo. Vabbè, ragazzi, grandissimo. Io sto morendo veramente di bestemmie. No, sto morendo di caldo. E assolutamente non ce la faccio più. Devo uscire da questo studio. Quindi ringrazio insomma la partecipazione di Alex Raccuglia. Ciao a tutti raga, ci vediamo per MDB Summer Radio. Ecco, esatto, quindi insomma sapete che ci saranno poi questi speciali musicali, sarà sicuramente interessante. Ringrazio chiaramente anche Claudia. Prego, prego, è stato un piacere. È sempre un piacere, ricordano. E anche un onore volendo. E ringrazio Alex Raccuglia. Sì, scusa, Luca Casciola. No, prego. Io volevo solo dire che praticamente come tutti sanno non faccio quasi più podcast, però ho la miniserie di Multimania che è alla puntata 3, ma sta per arrivare alla puntata 4 e voglio dire che nella puntata 6 è invitato Pizzi e volevo invitare anche Alex per la grande finale, quindi nel 2019 non prendete impegni perché pensa che mi ha invitato 6 mesi fa a me, quindi figurati. Vabbè, ma stiamo ancora alla puntata 3, Io ti ho invitato per la 6. Avrò probabilmente un figlio, però sarà già in età adulta, per cui potrò venire. No, meno male. Bene. Vabbè, grazie. Grazie a tutti. Non andate a vedere sta merda dei film. Quale? Ah no, andateci, che ve frega. No, è una merda, non dategli soldi. Però per noi deve morire bestemmia. E comunque ricordatevi che c'è uno dei due amici di JJ che fanno i produttori esecutivi della nuova serie, quindi attenzione, potrebbe essere un male. Vi saluto, grazie a tutti, grazie Alex, grazie Claudia, grazie Luca, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie a quelli che sono in chat, quindi Carmine, Carlo e tutti quanti, e arrivederci alle prossime puntate e soprattutto alla prossima stagione quando inizieremo a settembre. Ciao a tutti.